action begins. Each day climbs a line for the half dozen limbs. Ciao a tutti e a tutte. Oggi vi volevo parlare del ventennale di Genova, cioè di Genova 2001, insomma, della mobilitazione che vi fu contro il G8, contro la riunione dei rappresentanti delle otto grandi potenze. Allora, di Genova, insomma, ne parleranno in questi giorni sia ambiti e programmazioni di regime, telegiornali, giornali, programmi radio, eccetera, eccetera, sia ambiti di movimento, insomma, compagni e compagne che c'erano o non c'erano in quelle giornate di 20 anni fa di mobilitazione. Io c'ero, ecco, ma questo sì, magari il fatto di esserci ha un valore in più, ma penso sia importante il significato politico che ha assunto Genova. E politicamente mi sembrava giusto iniziare da un qualcosa che nella comunicazione, sicuramente quella ufficiale, viene sempre saltato a pie pari, cioè il fatto che tuttora ci sono compagni e compagne che stanno pagando a livello di carcere o comunque di detenzione, o che hanno pagato pesantemente per quelle giornate di mobilitazione. Tuttora c'è Vincenzo in esilio in Francia, esilio volontario costretto dal peso degli anni di galera per quella mobilitazione. Nel 2020 la Francia ha negato l'estradizione e vedremo come la sua vicenda giudiziaria si evolverà, se insomma c'è stato un movimento di solidarietà sia in Francia che in Italia nei suoi confronti. Questo è stato importante e anche questo è stato un fattore per negare l'estradizione. Sappiamo che insomma anche ieri, cioè questi giorni, insomma, c'è stata un nuovo arresto di un ex militante, insomma, in Francia, militante negli anni 70, quindi l'Italia sta premendo perché cambi l'approccio della Francia, insomma, si tenda, insomma, più facilmente di un tempo alla consegna dei perseguitati politici italiani nelle patrie galere, insomma, che arrivino nelle patrie galere. Vediamo se questo porterà qualcosa, ma bisogna essere sempre pronti alla solidarietà, alla mobilitazione, così c'è stato, insomma, in Francia. Ecco, io parto da questo dato dei prigionieri, ex prigionieri o comunque dei perseguitati per quella mobilitazione, perché questo è un dato ineludibile e che la sua censura ci illustra, già ci indica la narrazione che viene fatta di Genova, la narrazione di un popolo democratico, pacifista, multicolore, eccetera, eccetera, che chiedeva, interloquiva, a cui è stata data una risposta brutta da parte dello Stato. Non è esattamente così. A Genova c'è stata una grande rivolta, una grande mobilitazione popolare e militante e una grande rivolta anticapitalista e antiimperialista in quei giorni. Questo va detto, e i prigionieri, i perseguitati, gli inquisiti tra i compagni e le compagne sono stati colpiti per questo. Sono accusati, dopo le singole responsabilità individuali, insomma, non mi interessano, sono stati attaccati per questo, insomma. E sono stati messi in galera, perseguitati col reato di devastazione e saccheggio per questo, perché a Genova furono due delle giornate di lotta, di mobilitazione ampie, con una chiara prospettiva anticapitalista e antiimperialista, di classe. Si vede dagli attacchi che sono stati fatti in quelle giornate alle banche, alle agenzie interinali, alle agenzie immobiliari, alla polizia, ai giornalisti, al carcere Marassi. Ecco, questa è stata Genova per sgombrare il campo da tutta la retorica democratica che poi è funzionale al regime, noi siamo inermi, chiediamo solo di discutere con voi, voi ci avete massacrato, perché ci avete fatto questo se noi volevamo contribuire al grande processo del riformismo e al grande processo della fantomatica umanizzazione della globalizzazione imperialista? È una narrazione che è funzionale al nemico, si vesta oggi d'agnello, si vesta insomma nei vari frangenti d'agnello, abbiamo sentito Cottarelli dire che tutto sommato il movimento no global aveva ragione sulla finanziarizzazione che ha provocato il caos, eccetera eccetera, o si vesta dai poliziotti della Diaz che quel giorno lì dovevano per colpire quel movimento dovevano spaccare teste, dovevano spaccare ossa o i carabinieri in piazza che sparavano ad altezza d'uomo, ecco, e hanno ucciso il compagno Carlo Giuliani. Ecco, sì, vi stavo parlando, si stava parlando del ventennale di Genova, di cui insomma si sente parlare un po' ovunque in questi giorni. E sì, si era detto della repressione, insomma, si era concluso il precedente passaggio in riferimento alla repressione che c'è stata in quei giorni, una repressione brutale. E che però segniamocelo bene, questo non rappresenta un'eccezione. Ecco, tutto quello che si è detto, quello che si dice su Genova come momento nero nella storia della Repubblica Italiana nel dopoguerra, eccetera, non è vero. Ecco, di fronte a un movimento di massa che pone in pratica e azioni dirette contro le strutture del capitalismo, che scende in piazza in maniera militante, che si scontra con la polizia e che porta insomma in piazza quello che sono state pratiche poi che in quegli anni si sono viste a partire da Seattle nel 95, insomma, pratiche militanti anche di attacco, di difesa rispetto alle violenze della polizia. E lo Stato italiano sceglie insomma la mano dura fino ad arrivare all'omicidio di Carlo, ma insomma ai pestaggi della Diaz, eccetera eccetera. Ecco, si è detto mattanza latinoamericana, ma cioè, ricordiamoci che lo Stato italiano è quello degli omicidi di Stato per stroncare la mobilitazione degli anni 70-80. Lo Stato italiano è quello delle stragi di Stato, dell'utilizzo dei fascisti per mettere le bombe nelle piazze. Il momento fondativo della Repubblica cosiddetta democratica nel dopoguerra è la strage di Portella delle Ginestre contro i contadini siciliani, in mobilitazione, e negli anni 70-80 si praticò la tortura contro i militanti delle organizzazioni comuniste combattenti, una cosa insomma acclarata. E quello che si è visto nelle carceri rispetto alla mobilitazione dei detenuti nei mesi più duri, rispetto alle rivolte anche dei detenuti nei mesi più duri della mobilitazione in seguito alle misure anche nel carcere di contenimento del Covid, o forse più che di contenimento, di ulteriore pressione semplicemente della struttura carceraria verso i detenuti. Si vede rispetto alle mobilitazioni operaie anche in questi giorni, si è visto con l'omicidio di Adil poco tempo fa, con i carabinieri e i poliziotti che si alternano nel menare gli operai rispetto ai guardiani pagati, privati dei padroni. Cioè, quindi questo è lo Stato borghese italiano. Quindi quando sento quei discorsi sull'eccezionalità di Genova, sono delle tremende baggianate, sono delle prese in giro. Ricordo che ad esempio poco tempo prima di Genova, con governo di centrosinistra, col Ministero degli Interni napolitano, a Napoli l'analoga mobilitazione del movimento dell'epoca, insomma, riscontrò di fronte a una mobilitazione di piazza che insomma non fu paragonabile a Genova, riscontrò comunque episodi di pestaggi anche all'epoca. Quindi le favole del garantismo, le favole della trasposizione spazio-temporale, macelleria latinoamericana, sono immense, grandi e cazzate. Lo Stato borghese italiano, laddove c'è stata lotta, ha sempre mostrato la sua maschera più feroce, e su questo dovremmo ragionare, e forse questo è uno dei punti. L'imbonimento democratico e la cultura socialdemocratica, pacifista, eccetera, ci ha lavorato sopra su questo e volontariamente ha abbeverato la narrativa di regime sul momento buio che poi deve essere sospeso. E che poi si sospende, che poi è stata un'eccezione, è stata semplicemente una chiusura delle luci per un attimo, e tutto ciò ha sicuramente indebolito fino a portare alla morte di quel movimento, insomma. Ecco, si parlava di Genova, del ventennale della mobilitazione contro il G8 dell'epoca, della repressione, della durissima repressione che c'è stata all'epoca. Ecco. E si diceva come la lettura dello Stato e di settori socialdemocratici, insomma, è convergente su quegli eventi, insomma, la sospensione dello Stato di diritto, l'eccezionalità, non è stato così, insomma, lo Stato italiano ha sempre risposto così alle mobilitazioni e tuttora risponde così alle mobilitazioni popolari e militanti che si pongono in termini antagonisti, che lottano, che si ribellano, eccetera. Andrebbe fatta, secondo me, anche una riflessione sul patrimonio che comunque nella gestione dei vertici istituzionali, internazionali, è stato anche fatto proprio, entrato un po' nelle dinamiche di controllo generale del territorio, della popolazione che gli stati imperialisti, lo Stato italiano in questo caso, applicano specificatamente. Pensiamo al discorso delle zone rosse, ecco, all'epoca la zona rossa era la zona intorno a dove si riunivano proprio i caprioni dell'imperialismo internazionale, e poi questo concetto di zona rossa adesso lo vediamo applicato sulle questioni dell'epidemia, quindi il divieto di spostamento, lo spostamento per certificati motivi, eccetera. Qualcuno dice che il confronto è come dire tirato per i capelli, ma io ho molti dubbi, perché si è trattato e si tratta di dispositivi preventivi, di dispositivi emergenzialisti e di dispositivi che nel caso della questione sanitaria di questi tempi non hanno nessun rilievo reale dal punto di vista sanitario. Basta guardare la quantità di morti che abbiamo avuto in Italia pur con queste politiche restrittive andate avanti insomma per circa 2 anni, ecco, e hanno un rilievo di controllo, di disciplinamento di massa e di emergenzialismo, ecco, di emergenzialismo che poi entra strutturalmente nel DNA delle strategie di controrivoluzione e di controllo di massa che la classe dominante e il suo Stato mettono in atto e sperimentano soprattutto nella crisi del capitalismo. A mio avviso la repressione non è solo quella dei manganelli che abbiamo visto abbondantemente all'Opera Genova, ma è un costante bombardamento mediatico, un costante affinamento di strategie di controllo che anche preventivamente tengono la popolazione in una condizione di assoggettamento, di distrazione, di stress, di annichilimento, e questa questione del virus la vediamo in questi giorni anche con tutta la nuova, le nuove prospettive sul Green Pass, sull'apartheid per i non vaccinati, insomma, lo dimostra, l'abbiamo visto col coprifuoco, insomma. Chi parla di eccezionalità, gli stessi giornalisti che oggi piangono lacrime di coccodrillo per quanto accaduto a Genova, guardi al presente, guardi a come la questione dello Stato di diritto è carta straccia, è carta igienica all'occorrenza per lo Stato borghese e invece come conti il controllo, il dominio e, ripeto, la repressione laddove c'è ribellione. Concludo dicendo, insomma, 10-100.000 Genova 2001, laddove comunque Genova 2001 vive nelle lotte di oggi, quella mobilitazione vive nelle lotte di oggi, negli operai della GHN che occupano la fabbrica, negli operai della Whirlpool che occupano autostrada contro i licenziamenti, nelle lotte all'interno delle carceri dei detenuti, nelle lotte dei facchini, nella resistenza dei prigionieri, dei compagni prigionieri, laddove c'è lotta, ecco, nella lotta contro l'alta velocità in Val Susa, dove c'è lotta Genova vive, non vive nelle lamentele dei politicanti, dei burocrati che volevano utilizzare quel movimento per legittimarsi. E vive nella nostra capacità di lottare, di compagni e compagne, nella determinazione che abbiamo mostrato in quelle strade e che dobbiamo mostrare ovunque, insomma, contro gli stessi nemici contro cui allora insorgemmo. Ciao a tutti e a tutte. 54 giorni dopo. Una giovane sposa di 19 anni di Seveso che ha abortito 54 giorni dopo la sua richiesta. Come è cominciata la tua storia? Mi sono sposata il 18 luglio e dopo un po' mi sono accorta di essere incinta. Avevo letto sui giornali della diossina e dei suoi rischi e mi ero molto spaventata. Ero ancora fuori, in viaggio di notte. E quando sei tornata? Sono andata subito al consultorio per la visita ginecologica e ho fatto richiesta di abortire. Il dottor D'Ambrosio, del consultorio di Seveso, mi aveva organizzato l'appuntamento con lo psichiatra alla clinica Mangiagalli. Ma proprio allora lo psichiatra si era dimesso per tutte le polemiche intorno all'aborto e allora sono cominciate a passare le settimane. Continuavo a telefonare al consultorio e dopo un mese di insistenze, al momento della visita ero di 7 settimane e mezzo e oramai ero già di 13 settimane, mi hanno detto che un medico di Seveso, che mi aveva visitato anche lui, aveva fermato la mia pratica perché nel mio caso si trattava di una cosa tranquilla. Tranquilla in che senso? Questo medico si era spacciato per il mio ginecologo e sosteneva che nel mio caso non c'erano problemi. Poi mi hanno mandato all'ospedale di Seregno per la visita psichiatrica. Ho avuto un colloquio col primario di ginecologia che non ha voluto visitarmi, ma ha cercato di convincermi che dovevo rinunciare all'idea dell'aborto. Il colloquio con lo psichiatra è stato una grande cazzata, perché faceva domande stupide. Mi chiedeva se usavo anticoncezionali, se il bambino lo volevo, e io lo volevo, ma dopo la diossina avevo troppa paura. E poi dove abitavo e altre cose del genere. Poi alla fine del colloquio gli ho chiesto qual era la sua decisione. Allora ha cominciato a dire che lui non poteva decidere. Invece il primario mi aveva detto che l'ultima parola spettava a lui. E siccome insistevo, si è messo a urlare. Allora mi sono messa a urlare anche io, dicendo mi avete fatto perdere 4 settimane. Poi mi hanno dato il parere che era negativo, ma il parere era a voce. Allora gli ho chiesto una diagnosi scritta e si sono rifiutati di darmela, dicendo sempre frasi generiche sul fatto che ero sana e che tutto sarebbe andato bene. Allora ho chiesto un altro colloquio con lo psichiatra per avere delle spiegazioni, ma il giorno dell'appuntamento lo psichiatra non c'era. C'era il primario, che era anche il sindaco, che mi ha detto di stare tranquilla. Gli ho chiesto su che basi e lui mi ha detto che questo non lo sapeva, ma che era sicuro che sarebbe andata bene, cioè che ne era convinto. Poi mi ha detto di aspettare 2 giorni, che sarebbe arrivato il parere scritto. Invece non è arrivato, niente. E allora sono andata alla Mangiagalli insieme ad altre 3 di Desio e mi hanno fatto abortire per prostaglandina. È stata un'esperienza amara perché ho avuto un travaglio di 3 giorni. Tuo marito era d'accordo? Ne abbiamo discusso e l'abbiamo deciso insieme, anche se lui in realtà il bambino lo voleva. Anche per me la botta è stata grossa, ma se dovessi trovarmi di nuovo in quelle condizioni lo rifarei. Ci sono state reazioni qui a Seveso nei tuoi confronti? Certo, non c'è stata solidarietà da parte delle donne, anzi il contrario. In questo negozio di parrucchiere dove lavoro viene ora molta meno gente. Tanti parlano di reintegrazione nella società, ma quando succedono certi fatti questo non avviene. Si è rifiutati e lo stesso è avvenuto per le altre donne che hanno abortito. Perché avevi tanta paura per il bambino? Mio marito abitava tra la zona A e la B. Quando è successo il fatto della nube, in quei giorni ci stavamo preparando per il matrimonio ed io ero già lì per i preparativi. Soprattutto quella settimana abbiamo mangiato tutta la roba dell'orto e gli animali. Quando eravamo fuori ci sono venuti a tutte e due delle pustole e al ritorno a mio marito gli hanno trovato il fegato ingrossato e il medico ha detto che poteva dipendere dalla diossina. L'aborto l'hai fatto alla 15ª settimana? Sì. E dal momento in cui ho chiesto di abortire sono passati 54 giorni. Lo scontro con Comunione e Liberazione. Vanna Perego, del CISA, Centro Italiano Sterilizzazione e Aborto di Milano, a 39 anni. Hai seguito da vicino la storia delle donne di Seveso? Prima ancora che fosse scoppiata la bomba della diossina, ero stata invitata come rappresentante del CISA a partecipare ad assemblee che si tenevano nelle scuole di Seveso, Seregno, Cesano Maderno, sul problema della sessualità e sulla questione femminile. I ragazzi sembravano molto disposti e aperti nei confronti di questi temi, ma in tutte le assemblee c'era una forte presenza di giovani di Comunione e Liberazione e la discussione diventava abbastanza difficile. I ragazzi e le ragazze delle scuole seguivano con attenzione e le questioni più dibattute erano la sessualità, la contraccezione e la maternità come unica realizzazione della donna. La componente cattolica era estremamente alta e quindi veniva fuori in modo immediato un certo tipo di condizionamento. Il contrasto con CL era evidente, portano avanti un discorso talmente rigido che i ragazzi, i quali sono molto più liberi di quanto non lo fossimo noi alla loro età, si rendevano conto che si trattava di una posizione abbastanza insostenibile. Avevate avuto contatti anche con donne della zona? Solo a livello individuale, con quelle che erano venute al CISA perché volevano abortire e chiedevano aiuto. Erano donne che avevano fatto una scelta meditata. E dopo la diossina? Ci siamo interessate subito perché abbiamo capito che uno dei problemi fondamentali rispetto al dramma successo erano le gravidanze non volute, o per meglio dire, che non erano più desiderate dopo la nube. Vi siete presentate come CISA? Non era possibile, sarebbe stato all'inizio controproducente dato il livello di maturità delle donne in quelle zone. Abbiamo cercato di prendere contatto con le sfollate ad Assago e a Bruzzano, perché ci sembrava che sarebbero state quelle più disponibili a discutere la loro situazione, soprattutto ad Assago, più che a Bruzzano. Siamo riuscite ad avere dei rapporti con un certo numero di donne e a capire quali erano i loro problemi. Poi abbiamo preso contatto con i collettivi femministi della zona per trovare un collegamento con le donne. Sarebbe stato così più facile aiutarle. Quanti sono i collettivi femministi? Ce n'è uno a Cesano Maderno, uno a Seveso, uno a Desio. Soprattutto quello di Desio operava da più tempo nella zona e aveva quindi più collegamenti. Lavorano in condizioni difficili e l'etichetta di femminista non ti aiuta certo ad avvicinare un certo tipo di donne che vedono la femminista soprattutto come una hippie per gli zoccoli e le gonne lunghe che portano e non vogliono ascoltare il loro discorso ideale. Ad ogni modo i collettivi ci hanno aiutato perché grazie a loro siamo riusciti ad entrare in alcune case a parlare con le donne e ad appoggiarle quando hanno voluto abortire. L'apertura del consultorio ha aiutato le donne a porsi il problema della contraccezione? Tieni conto che lo smarrimento iniziale è stato enorme anche perché le informazioni erano estremamente contraddittorie. Anche nelle assemblee pubbliche le persone di sinistra si affannavano a spiegare i rischi della diossina, altri invece, nonostante le ordinanze della regione che mettevano l'accento sul pericolo, tendevano a rassicurare le donne, le quali d'altra parte chiedevano solo di essere tranquillizzate. Erano certo più disponibili ad illudersi e ad appoggiarsi a coloro che minimizzavano la pericolosità della situazione. Il consultorio di Seveso sta seguendo ora circa 500 donne in gravidanza. Certo, il lavoro del consultorio non è stato facile, se è stato già quasi impossibile far abortire le donne della zona A che avevano preso questa decisione, era certo inutile pensare di porre il problema anche per quelle delle zone limitrofe. Le donne della zona B, ho parlato con molte di loro, sono spaventate. Soprattutto perché i confini delle zone inquinate sono stati delineati in fasi successive e intanto il tempo passava e a un certo punto l'unica possibilità era quella di accettare la gravidanza. Come si è mosso il CISA nella zona? Siamo sempre state del parere che l'aborto doveva essere effettuato nelle strutture pubbliche, a maggior ragione nel caso di Seveso. Abbiamo quindi soprattutto cercato di dare un appoggio alla lotta delle donne. Alcune di noi sono state per giorni al consultorio di Seveso, dove il consiglio di fabbrica dell'ICMESA aveva ottenuto una stanza e dove si era costituito un comitato scientifico popolare, nel tentativo di ridare alla situazione contorni reali rispetto ai problemi della bonifica e a tutte le cose da fare. In questo comitato c'erano dei legali per le cause da intentare l'ICMESA, dei chimici, degli ingegneri, degli ecologi, per la difesa del terreno. C'eravamo poi noi, donne del CISA e gli operatori del consultorio. Molte donne e anche uomini mi hanno detto che il contrasto di fondo che è emerso intorno alla questione dell'aborto fra Comunione e Liberazione e altre forze della destra cattolica da una parte e voi del CISA, con i radicali e le femministe dall'altra, ha provocato una rottura e una scissione profonda anche nella coscienza delle donne. È vero che nel complesso la situazione è stata riportata indietro da questo tipo di scontro? A me non sembra che ci siamo spinti troppo avanti nel discorso che abbiamo fatto sui rischi della diossina, ma non ci si aspettava un atteggiamento così irresponsabile di certe forze, le quali continuano a sostenere che praticamente la diossina è quasi un ricostituente. Non ci sono sicurezze, certo, ma il solo rischio è già in sé grave. La nostra tesi era che bisognava continuare a dare informazioni alle donne, perché fossero poi libere di decidere e di programmare la contraccezione per tutte le donne della zona facendo un censimento. Occorreva avere una mappa del territorio ben precisa e dare il massimo di pubblicità a questi dati. È soprattutto questo che è mancato. Alcuni degli abitanti della zona A si sono resi conto che non avrebbero più dovuto tornare nelle loro case, solo quando erano già saliti sui pullman che li dovevano portare a Bruzzano e ad Assago. Voi del CISA a Milano avete assicurato delle permanenze nella zona? In agosto non è stato facile assicurarle, in settembre, quando tutti sono rientrati dalle ferie, abbiamo ripreso il nostro discorso e il momento che ci ha visti più impegnati è stato quando l'ospedale di Desio ha rifiutato i primi ricoveri per aborto, che poi sono stati effettuati alla Mangiagalli. E poi quando, al secondo ricovero, c'è stato ancora il rifiuto dell'ospedale di Desio, abbiamo occupato la regione, qui a Milano. Abbiamo chiesto un incontro con l'assessore Rivolta nella speranza di obbligare la struttura ospedaliera ad intervenire, cosa che purtroppo non è avvenuta. Qual è a tutt'oggi il numero degli aborti effettuati? 28 alla Mangiagalli, 2 all'ospedale di Desio, poi c'è stato il tentativo, fallito, di ricoverare 4 donne all'ospedale di Monza. Di queste una ha abortito con noi e altre 3 sono andate ad abortire a Londra, sempre con il nostro aiuto. La diossina ha spinto secondo te la popolazione a crescere politicamente? Rispetto agli sfollati di Bruzzano, ad esempio, negli ultimi tempi si è visto un atteggiamento diverso di gente che sta pensando a che cosa gli è successo, sul serio, anche perché gli sfollati di Bruzzano hanno avuto bambini, ancora ricoverati in ospedali, colpiti dalla cloracne, cioè da manifestazioni sulla pelle molto vistose. Forse per questo è più facile per loro convincersi che non sono tutte storie quelle che si raccontano sui pericoli della diossina. È stato certo un grosso dramma e io mi auguro che, ripartendo da qui, possa svilupparsi il discorso della salute per chi lavora nelle fabbriche, ma anche per coloro che abitano vicino alle fabbriche. Non ha senso vivere in un ambiente che è diventato irrespirabile. Mi ricordo che, parlando con quelli di Assago, venivano fuori testimonianze impressionanti. Alcuni dicevano: vivevamo lì da 2 anni, all'inizio si sentivano cantare gli uccelli, poi c'è stato silenzio. Che l'ambiente si stesse trasformando già lo stavano verificando loro, sulla base di piccoli fatti. L'erba dei prati che non cresceva più come prima, ad esempio. La nube è stato certo un momento culminante, ma che l'inquinamento ci fosse già, lo cominciano a capire anche loro. Mandi alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Berlin Magnetics. Le parole che avete appena ascoltato sono tratte da un libro che si intitola Le donne di Seveso, un libro inchiesta scritto da Marcella Ferrara nel 1976 e pubblicato nel 1977, è scritto appunto nei mesi immediatamente successivi al crimine di pace rappresentato dal disastro dell'ICMESA che ha colpito Seveso ma anche altre località, e cioè Desio, Cesano Maderno e Meda. Marcella Ferrara realizza questa inchiesta praticamente facendo la spola tra Milano e queste 4 località che ho appena nominato, solo dopo 4 mesi dalla fuoriuscita della nube di diossina da un reattore dell'ICMESA. Ma che cos'era l'ICMESA? L'ICMESA era praticamente un'industria chimica della Roche, una multinazionale con sede in Svizzera, che ufficialmente produce profumi, cosmetici, detergenti, che in realtà produce anche come diciamo produzione semi nascosta triclorofenolo di diossina. cioè una sostanza che viene utilizzata per le armi chimiche, praticamente è stata utilizzata in Vietnam, nella guerra del Vietnam, contro le popolazioni vietnamite. E quindi dietro le quinte di questo disastro ambientale c'è anche qui la produzione militare e la guerra. Ci dice Marcella Ferrara, tra l'altro il libro è oramai introvabile, però nel sito dell'Archivio Seveso Memoria di Parte, che è questo www.archivioseveso.it, si trova il libro integrale e si può leggere o scaricare, insomma, o stampare. Ci dice l'autrice Marcella Ferrara che nella storia di questi 4 mesi c'è un prima diossina e un dopo diossina, e c'è questo prima e dopo diossina molto pesantemente nella storia delle donne soggetto di questa inchiesta. E ci dice che sono proprio queste donne a raccontare una storia diversa, a presentarsi in un modo che sfugge ad ogni precedente cliché, ad emergere con una loro verità. Vado a leggervi dall'introduzione di Marcella Ferrara. Il lavoro più semplice è stato infatti con loro. Bastava sollecitarle con domande precise e cominciavano a parlare, senza imbarazzo, non curanti del registratore, senza scegliere le parole di getto. Soltanto una ha avuto soggezione del microfono, ha chiesto di spegnere il registratore e mi ha pregato di prendere appunti. Era un'insegnante. Straordinaria le più giovani, con una capacità di sintesi invidiabile, la responsabile femminile della Camera del Lavoro di Seregno e la ragazza di Seveso impiegata a Milano mi hanno aiutato a capire quanto era realmente accaduto, più delle centinaia di colonne di piombo che avevo letto sull'argomento. Sono andata a cercarle ovunque, le donne da intervistare, nelle loro case, nelle camere del lavoro, nelle sezioni dei partiti. Mi hanno accolto tutte con cortesia e affetto, ritenevano normale che fossi io a rivolgere delle domande. Mi guardavano attente e curiose, non avevano nulla da nascondere. Volevano raccontare tutto di loro, del loro impatto con la diossina. Si creava ogni volta un clima di grande amicizia, di solidarietà, di quella particolare solidarietà che si crea tra donne senza mediazioni diretta. Quando sono andata a cercarle a Bruzzano, nel mastodontico motel di 800 stanze in cui erano state evacuate una parte delle famiglie della zona A, la zona più inquinata, sono capitata in un momento difficile. C'era il dermatologo che visitava le bambine colpite da cloracne ed effettuava controlli sugli altri ragazzi. Ne ho viste 2 di bambine con il volto deturpato dalle pustole. Mi hanno mostrato con grande serietà le piccole piaghe. Non sembravano spaventate, erano rassegnate. Rispondono alle domande. Parlano con voce sicura le donne, ogni tanto piangono ma subito ricominciano a parlare. Dicono di aver capito che è importante, che la gente comincia a dimenticarsi del loro dramma, che sono diventati oramai quelli di Seveso, un fatto ecologico che non ha più una fisionomia umana. Bisogna dire la verità, insistono, bisogna far sapere gli errori che sono stati commessi, bisogna incalzare le autorità comunali e regionali. Perché Roma non si muove? Parlano di sé e delle loro famiglie in modo sicuro, convincente, più che lamento e rabbia, quella che traspare dalle loro parole, e lo stesso accadrà con le altre donne che incontrerò nel corso dell'inchiesta. Hanno tutte qualcosa da chiedere, da pretendere, hanno l'impressione di avere subito dei torti, ai quali bisogna in qualche modo riparare. E poi? Bisogna andare al consultorio, all'ambulatorio per le analisi, agli ospedali per i controlli più specializzati e poi cercare la casa per quelli che non l'hanno più, scegliere i mobili, ricreare quell'elemento di sicurezza che la casa rappresentava per queste famiglie di emigranti venute nella Brianza in cerca di lavoro e che avevano trovato lavoro e casa, 2 punti fermi, 2 certezze, perdute da riconquistare. E poi il terrore della gravidanza, il dramma dell'aborto in un'atmosfera ostile, tra contrasti profondi, senza parole sicure. Il rischio c'è, ma sei tu a dover decidere. Non è facile, anzi è difficilissimo, specialmente se intorno ti cominciano a dire che sei un'assassina, che vuoi uccidere la vita, che il rischio, forse, è minimo, e che se non vorrai tenere un figlio malformato ci saranno famiglie cristiane disposte ad adottarlo, come se fosse possibile dare via un figlio, anche handicappato, dopo averlo messo al mondo. Non ho mai sentito rivolgere a una donna una proposta più offensiva di questa, e le donne di Seveso sono veramente offese. От узколобой весны во все четыре стены, от подгоревшей еды за все четыре беды, от поколения зла в четыре черных числа. Накинуть старый мундир, протертый кем-то дыр. Siamo sempre su The Wings Magnetics e continuiamo questa carrellata sulle donne di Seveso, e avvalendoci di un opuscolo che si chiama Topo Seveso, e a cura del collettivo Mai Stata Zitta di Milano, un opuscolo che è stato prodotto nel 2007. Quindi un bel po' di tempo fa, ma che comunque rimane molto importante per le riflessioni che porta avanti. Tra l'altro ricordiamo che qualche settimana fa abbiamo mandato in una puntata di The Wings Magnetics il podcast di Seveso come un'infanzia, è un contributo di Radio Cane del 2016, anche quello molto, molto importante, molto approfondito. Allora, in questo opuscolo che si chiama Topo Seveso, prende il nome da questo Mus Sevesinus, cioè questo topo geneticamente mutato dalla contaminazione da diossina, che fu scoperto nel 1995 da ricercatori che studiavano gli effetti del veleno sugli animali nell'area dell'Icmella, e poi questo topo si è estinto perché diciamo la mutazione genetica provocata dalla diossina lo ha reso sterile, quindi non si è più riprodotto, quindi insomma questi topi qua si sono estinti. Allora, ci dicono le compagne del collettivo Mai Stata Zitta di Milano, ci ricordano che nel luglio 1975 con la legge 405 vengono istituiti i consultori familiari e di conseguenza viene soppressa l'opera nazionale maternità e infanzia ONMI, che era stata fondata da Mussolini. Con questa legge si cominciò a parlare di maternità responsabile, procreazione responsabile, tutela della salute della donna e del prodotto di concepimento, promozione dei metodi anticoncezionali. Pur essendo una legge centrata sulla coppia eterosessuale e sulla famiglia, più che non sulla donna. Le femministe criticano aspramente la medicalizzazione che la legge introduce, a fronte dell'autogestione della salute che andavano promuovendo. Infatti, diciamo che il movimento femminista era più concentrato sulla creazione di ambulatori, di consultori autogestiti, mentre la legge che istituisce i consultori così cambia un po' questa prospettiva, anche se soprattutto all'inizio c'è libero accesso dei gruppi femministi a queste strutture. Ne abbiamo già parlato anche di questo in un'altra puntata. A Seveso il consultorio viene aperto il 2 agosto 1976, tre settimane dopo la fuoriuscita della diossina, in una sede e con un'organizzazione provvisoria. A fronte di una massiccia affluenza di donne incinte, 468, o che chiedevano anticoncezionali 98, un semplice controllo 198, mancavano gli operatori e i medici, che vennero momentaneamente sostituiti da tre ginecologi della Mangiagalli, disponibili tre giorni alla settimana. Intanto la Commissione per i problemi sanitari, istituita dalla Regione Lombardia presso l'Assessorato alla Sanità, il 30 luglio 76, aveva suggerito alle donne incinte delle zone contaminate di sottoporsi a controlli e aveva indicato alle altre la misura prudenziale di evitare nuove gestazioni per i sei mesi successivi, fino all'avvenuta bonifica. Da qui sorsero i problemi riguardanti gli anticoncezionali, cominciò ad acuirsi quella spaccatura tra la visione cattolica e quella laica che avrebbe creato ulteriori lacerazioni nelle vite delle donne. Monsignor Guzzetti, capo della Commissione Famiglia della Diocesi di Milano, ad esempio, si scagliò contro l'azione disturbatrice e la speculazione abortista che a suo parere il consultorio pubblico sevesino esercitava, arrivò a paventare l'esistenza di un piano generalizzato di sterilizzazione e contraccezione e ribadire indicazioni della dottrina cattolica sugli anticoncezionali, che ammetteva soltanto la contraccezione naturale, dottrina che cercò per fortuna invano di imporre ad operatori e operatrici del consultorio. La situazione poi sarebbe degenerata dopo che il 12 agosto il governo Andreotti dichiarò la costituzionalità della scelta per le donne di Seveso di usufruire dell'aborto terapeutico. in quanto la legge sull'aborto non era stata ancora, non c'era ancora, mentre quindi l'aborto era ancora un reato contro la stirpe, mentre il direttore di Avvenire parlava di strage degli innocenti. Monsignor Tettamanti, attuale vescovo di Milano, definì quegli aborti eugenetici e non terapeutici. La inviolabilità della vita del nascituro sarebbe poi stata dichiarata dalla CEI il 13 settembre, sempre del 76, con un comunicato della Presidenza, quasi un mese dopo che il Papa aveva dichiarato che a Seveso c'era in atto una sopraffazione psicologica sulle donne in attesa della maternità. E così, prima ancora che esistesse la legge 194 del 78, che arriverà quindi anni dopo, la Chiesa Cattolica cominciò quella crociata antiabortista che oggi persiste ancora con gli stessi toni colpevolizzanti. Aggiungo io, esisteva nel 2007, anno di stesura di questo opuscolo, ma esiste tuttora. E niente, per concludere questa riflessione sulle donne di Seveso e non solo su di loro, su tutte noi, e chiudo con delle domande che si sono poste le compagne del collettivo Mai Stata Zitta di Milano. Ci siamo domandate se un evento come quello accaduto a Seveso, con la sua portata e le sue ripercussioni, si ripetesse oggi, quali sarebbero i punti di riferimento per le persone coinvolte e soprattutto quali punti di riferimento per le donne? I consultori assolverebbero la stessa funzione? Verrebbero in qualche modo investiti di questa richiesta? E se sì, come sarebbero in grado di fornire delle risposte? Come abbiamo visto, nel 76 i consultori pubblici, sotto la spinta di una pressantissima richiesta da parte delle donne, erano appena stati istituiti. A Seveso, il consultorio aperto al volo in emergenza diventò subito un punto di riferimento per le donne. Il concetto nuovo e importante era: non vado solamente dal ginecologo a chiedere consiglio su cosa fare, ma vado in un posto in cui, oltre al medico, trovo altre donne che condividono i miei stessi dubbi, le mie stesse paure e le mie necessità. Con tutti i loro limiti, comunque, i consultori pubblici hanno rappresentato questo per almeno un paio di generazioni di donne, hanno mantenuto questa specificità almeno fin tanto che la presenza delle donne utenti all'interno dei comitati di gestione ha fatto valere il proprio peso. Nel corso degli anni, la natura dei consultori, soprattutto questo aspetto sociale delle strutture, è via via venuto meno, o meglio, le strutture hanno finito per appiattirsi sulla dimensione ambulatoriale, come si sarebbe potuto già prevedere dalla loro forma istituzionale, stabilita dalla legge del 1975. Quindi, se dovessimo rispondere alla nostra domanda e se succedesse oggi, la risposta sarebbe probabilmente un ni. Un questionario distribuito tempo fa fra le donne al mercato evidenziava come le donne non sentono proprio il consultorio, la maggior parte non sa che tipo di servizi vi si possa trovare. Chi lo sa lo immagina semplicemente come un poliambulatorio e soprattutto c'è l'idea diffusa di un posto a cui si rivolgono i casi sociali, famiglie in difficoltà, immigrate, eccetera. Le giovani poi, probabilmente, fanno ormai parte di una generazione con mamme che fissano loro direttamente l'appuntamento col ginecologo di fiducia. Oh, dirò che stia. Ora manderemo in onda un contributo audio dove si può ascoltare la voce di Anna Maria, la mamma di Claudio, uno dei cinque coraggiosi che il 20 novembre scorso, lo ricordiamo ancora una volta, hanno firmato un esposto alla procura di Ascoli, dove testimoniano i pestaggi, le torture e le violenze delle guardie a cui hanno assistito nel corso della rivolta al carcere di Sant'Anna di Modena nel marzo 2020. Giorno dopo giorno continuano a emergere nuove testimonianze e richieste di far luce su quei fatti, nonostante, come ascolterete, continuino le vessazioni a carico di chi non si piega e dice la verità. Voglio fare il boia per lavarmi i denti. È il miglior mestiere. Voglio fare il boia. Ho predisposizione. Sono nato con la vocazione. Chi ammazza sempre torto, sì, lo so, però per me non è così. Voglio fare il boia per lavarmi i denti, è il miglior mestiere. Voglio fare il boia, mettere carattere vuol dire farsi un sorriso. Nessun coi denti sporchi condannato da domani mi vedrà. Voglio fare il boia, voglio fare il boia, è il miglior mestiere. Voglio fare il boia, voglio fare il boia. Voglio fare il boia, è il miglior mestiere. Voglio fare il boia, voglio fare il boia, voglio fare il boia. Buonasera a tutti, io sono la mamma di uno dei cinque firmatari, di Claudio. E naturalmente ho sempre cercato di stare vicino a mio figlio in qualsiasi momento, anche se a volte i ragazzi sbagliano, però l'errore lo può fare chiunque. E non perché mio figlio oggi sta scontando una pena che lo debba abbandonare, anzi, oggi ha ancora più bisogno di me, per quello io continuerò a stargli ancora più vicino, sia a lui che a tutti gli altri che ne hanno bisogno. Anche perché l'ho sempre sentito una persona sempre disposta a dare un po' del mio. Ho fatto molti anni volontariato e per me fare volontariato vuol dire aiutare chi ne ha bisogno, e se qualcuno si prende cura di mio figlio, lo ringrazio perché vuol dire che è una persona comune. Allora, quello che è stato detto fino adesso fa molto male, perché io quando è successo il fatto ero purtroppo in una regione fuori Napoli per una malattia molto grave di mio marito, e ho saputo, se grazie ad Alice, dopo 15 giorni, perché mio figlio si è messo in contatto con Alice, ho saputo dopo 15 o 20 giorni dove era mio figlio o se era ancora vivo, perché nessun genitore è stato avvisato di quello che era successo dopo la rivolta. Per 20 giorni mio marito non è più ospedale, io vicino a lui, il cuore non sapete come ce l'avevo, abbiamo finalmente saputo che era stato portato ad Ascoli Piceno. Con mio figlio ho avuto molti colloqui, adesso ultimamente perché lo facciamo tramite Skype, non ho avuto modo di parlarci per 3 mesi dopo la rivolta perché era stato messo in cella liscia come in isolamento. E dopodiché, quando ho avuto modo di potervi parlare, mi ha raccontato quello che è successo. Nonostante tramite Skype sono controllati e ci sono le videochiamate che vengono registrate, lui non ha avuto timore di dirmi quello che è successo perché era giusto che noi genitori sapevamo come realmente erano andate le cose. Allora, si parla di morte di overdose, sono bugie, perché chiunque penso, anche un bambino può capire, che se una persona viene soccorsa, dice la missione di soccorso, se una persona viene soccorsa non si vuole che abbia tolto, ma viene salvata. Allora, questa è una scusa che hanno trovato perché hanno demolito e non sono stati solo i detenuti, ma anche chi stava all'interno, hanno modificato tutto per togliere le prove di mezzo, con mani naturalmente rotto le telecamere per togliere le prove di mezzo, perché i ragazzi si sono, una buona parte, anzi la maggior parte si sono arresi, compreso mio figlio, si sono arresi e sono usciti fuori a piazzale. Qualcun altro naturalmente che è stato magari più ruento è rimasto all'interno, sempre più tetti, magari ha fatto anche abuso di farmaci, però non si muore di overdose. Quello che è successo è che quando loro si sono arresi sono stati portati tutti in un campo sportivo e sono stati menati di brutto. E non solo, sono stati denudati, perché erano solo con una maglietta e una mutandina addosso, scarsi, al freddo, l'hanno lasciati al freddo finché non hanno caricato sui furgoni per trasportarli in nottata nelle carceri di destinazione. Dopo che sono stati menati nel campo sportivo, hanno continuato i pestaggi anche durante il trasporto. E non solo, hanno continuato il pestaggio anche all'arrivo in un carcere diverso che non c'entrava nulla con la rivolta di Modena, ma che avevano avuto ordine che dovevano essere puniti. Sono stati chiusi in isolamento più di un mese e mezzo, con gli stessi vestiti, calzi senza scarpe. Infatti mio figlio, quando ho avuto la prima videochiamata, mi ha fatto vedere le caviglie, erano gonfie così. Aveva i piedi gonfi al massimo, che ha dovuto prendere un po' dei medicinali per la circolazione. E come lui anche gli altri ragazzi. Quello che è grave è che Piscitelli, che è stato portato con loro nel trasporto fino ad Arco Piceno, da quello che mi è stato detto, durante il trasporto Piscitelli è quello che ha subito più percosse. Quando sono arrivati non riusciva neanche a camminare, l'hanno dovuto trasportare a braccio i compagni per portarlo in cella, dove l'hanno fatto mettere per terra finché non hanno dato ordine di farti letto. I cellanti gli hanno fatto il letto, dopodiché lo hanno messo sul letto. Non riusciva neanche a stare in piedi per le volte che l'ha ricevuto. I medici che dovevano naturalmente controllarli alla partenza non hanno fatto alcun controllo. I medici che dovevano controllarli all'arrivo nella nuova casa circondariale non hanno fatto alcun controllo. Per quello non gli hanno fatto togliere neanche le magliette per vedere i segni evidenti che c'erano sulla pelle. Ci tengo a dirlo, Piscitelli è arrivato che era quasi morente. Gli hanno fatto il letto, l'hanno messo sul letto, hanno chiesto aiuto che venisse visitato. L'aiuto non è arrivato in serata, non è arrivata in nottata, non è arrivato il mattino dopo, nonostante i ragazzi urlavano che stava morendo. Alle 9 del mattino hanno verificato che Piscitelli è morto. È morto per le volte che l'ha subito. Hanno avuto il coraggio di dire che era morto in ospedale. Non è vero, è morto in cella, davanti ai suoi compagni cellanti. A questo punto, i 5 ragazzi, compreso mio figlio, si sono decisi a fare questo esposto. Si sono messi a rischio, perché stanno pagando ancora adesso, dopo un anno e mezzo, le conseguenze di questo esposto. Ma loro non si tirano indietro. Sono stati interrogati più volte, gli hanno addirittura mostrato delle foto segnaletiche per dire riconosci queste persone, erano loro che vi hanno menato. Tutti e 5 ragazzi in 5 case circondariali diverse, senza neanche riuscire a parlarsi, tutti e 5 hanno detto queste foto segnaletiche non sono foto di secondini, sono foto prese a caso, mostrateci secondini che erano di turno quel giorno e noi li riconosceremo. Noi non possiamo puntare la mano contro una foto se non è lui che realmente era presente ed è lui che ci ha ridotto in questo stato. Non possiamo permetterci, non siamo come voi che puntate il dito anche contro un innocente. Si sono rifiutati tutti e 5 di riconoscere quelle foto perché non erano lì. E hanno chiesto che gli venissero mostrate le foto reali che non sono mai arrivate. In più ci sono stati dei ricatti. perché poi ho contatto con gli altri genitori, fratelli e sorelle. Messaggio promozionale a scopo educativo. Salute, economia e vita sociale sono costantemente minacciate da pericoli insidiosi, ma dobbiamo e possiamo difenderle. Grazie alle armi. Signor Sì, armi e soldati in ogni momento ed in ogni luogo per combattere la guerra contro malattie e povertà. Carri armati, aerei, navi, la migliore tecnologia bellica al nostro fianco per garantire un futuro di profitto e sicurezza. Per vincere le sfide di oggi e di domani, armi. È una campagna militare di disumanizzazione. Mattia, il più giovane, ha la sua prima esperienza. Gli è morto davanti a lui i piscitelli, perché era con lui in cella. È rimasto scioccato. Per 20 giorni non parlava più di questo ragazzo. Questo ragazzo qui non hanno interrogato due volte come gli altri, ma tre. Lo hanno ricattato dicendogli di tira l'esposto, ti diamo quello che vuoi. Addirittura gli hanno offerto un lavoro in biblioteca. Mattia, un ragazzo giovane, ha detto: io, ultimo arrivato, offrite a me il lavoro quando c'è gente qui molto più anziana di me e che ha dei figli a casa, io dovrei venire a lavorare. Assolutamente, piuttosto faccio la fame. Ma io con voi non ci lavoro, perché io non mi vendo. Io non ritiro l'esposto, perché è morto davanti a me Piscitelli. E Piscinelli aveva quasi terminato, doveva quasi uscire. Era un ragazzo che con la sua volontà faceva teatro, si era quasi, diciamo, riabilitato, voleva condurre una vita più serena all'esterno. Noi l'hanno data questa possibilità. Anche perché poi all'interno delle case circondariali dicono che dovrebbe esserci, ci dovrebbe essere una rieducazione delle persone. Non è vero, non esiste. Perché io vi posso dire, con le mie spalle e a mie spese, che mio figlio è un anno e mezzo che aspetta un garante. Io vorrei capire dopo, dal garante dei detenuti che è vicino a me, cosa vuol dire la parola garante. Io me ne intendo molto di numeri, sono una ragioniera. Di parole purtroppo a volte mi sfuggono, non mi so dare questo significato. Vorrei capire da lui cosa vuol dire garante, la parola garante, me la dovrebbe spiegare. Come cosa vuol dire educatrice, mi dovrebbe spiegare la parola educatrice. Allora, mio figlio è un anno e mezzo che chiede di poter parlare con un garante ed è un anno e mezzo che il garante di Parma, il signor Cavalieri, non si è fatto vedere, nonostante nella casa circondariale va tutti i giorni. In più mio figlio, che vuole terminare i suoi studi universitari, perché andava al Gams di Bologna, non per dire, ma ci sono parecchi universitari alla media del 30 e lode, gli hanno rifiutato in un anno e mezzo di poter continuare gli studi universitari. A Modena non avevano i mezzi per farglielo continuare, alla scuola di Cera non avevano i mezzi per farglielo continuare, a Parma non avevano i mezzi per farglielo continuare. Allora lui ha risposto in quest'anno a 3 interpelli, ha detto: pur dico di terminare la mia università, io vado in un altro posto, c'era un interpello per la Sardegna, in una casa circondariale nel Nuorese, in mezzo alle montagne, sperduta da Dio, una casa di lavoro dove lui doveva studiare e lavorare, poteva fare o il contadino o quelli che fanno le case, il muratore. Ok? Lui ha detto: ok, ci sto. Ha risposto all'interpello per poter andare in questa casa secondariale, lavorare e studiare. L'educatrice gli ha dato parere sfavorevole. Ha risposto all'interpello poi, sempre in Sardegna, perché dice: magari scegliendo un'isola in mezzo al mare, messo in un posto lontano da Dio, magari me l'accetta, no? Secondo interpello in Sardegna, l'educatrice parere sfavorevole. Ha risposto un interpello ad Avellino un mese fa, l'educatrice parere sfavorevole. Allora mio figlio ha chiesto garante, ha detto: ma dov'è questo garante in modo che possa darmi la possibilità di poter compito anche gli studi, io voglio solo studiare, io non sto chiedendo una libertà, non sto chiedendo un braccialetto per andarmi a casa, non sto chiedendo di andarmene libero, voglio scontare la mia vita. Avevo sbagliato, quello che ho sbagliato è che errori purtroppo, vabbè, lasciamo perdere, stupidi, ma sta lì, deve pagare, lui vuole pagare, però aspettatemi la possibilità di studiare, voglio terminare i miei studi universitari. Adesso lunedì rispondo all'interpello della Federico II di Napoli. Ok? Voglio vedere se l'educatrice continuerà a dire parere sfavorevole. Allora, a questo punto, questo signor Cavalieri, entro martedì o mercoledì al massimo, può andare a parlare con questa educatrice, prenderla per i capelli e dirgli: ma perché sei un'educatrice? Vuole studiare, cosa gli stai negando? Segue gli ordini. Cosa ti stai negando? Per quale motivo? Perché fa parte di una rivolta? Perché questo è il motivo. Per quale motivo? Perché è un firmatario. Dovreste essere grati a queste persone, perché hanno avuto il coraggio di dire la verità. Messaggio promozionale a scopo educativo. Se anche tu senti il peso di questa situazione, sappi che per uscire da ogni crisi la risorsa migliore è dentro di te. È la paura! Perché grazie alla paura puoi giustificare qualsiasi scelta o comportamento, anche il più stupido o irrazionale. Ciò che fino a ieri non avresti mai accettato. Se hai sempre paura, diventa la tua nuova normalità. Quando vivi nella paura, fai tutto ciò che ti viene ordinato e il paese riparte alla grande. Coraggio! Che aspetti? Abbi paura. Senza paura. È una campagna di disumanizzazione. Un altro di 5, un 62 anni, ha terminato che... Non ne ha parlato, lo dico io, ha terminato la sua pena un mese e mezzo fa, doveva essere scarcerato, ok? 62 anni, sapete cosa hanno fatto? Non hai diritto di andarti da libero, vai in una casa di lavoro, lo pici a Casalfranco, in una casa di lavoro, quello si chiama ergastolo bianco, ok? Me lo sono fatto spiegare dal mio figlio, senti Claudio, spiegami cosa vuol dire il ragazzo bianco, perché non lo so. Mi fa no, perché loro, la giustizia italiana, può stabilire che tu, quando termini una pena, magari sei una persona pericolosa o cosa, solo perché fai furti, magari puoi ricominciare a fare i furti, sei una persona pericolosa, allora non ti mette fuori, ti può dare il ragazzo bianco, ti può mettere in una casa di lavoro per altri 2 anni. Però se in questi 2 anni tu non ti comporti bene, e qui il garante me lo può confermare, i 2 anni si raddoppiano, diventano 4, poi diventano 6, poi diventano 8, da quello che mi hanno confermato. A Castelfranco c'è una persona di 85 anni. Dove l'hanno messa? No, non parlano di questo qua, dell'altro. Perché mi hanno detto, i ragazzi di su, che c'è una persona di 85 anni ancora in ergastolo bianco. Questo qua invece che è il firmatario, gli hanno dato l'ergastolo bianco perché è un firmatario dell'esposto. L'hanno ricattato, lui non ha ritirato l'esposto perché lui porta avanti l'esposto. L'hanno tolto da Castelfranco perché aveva un'associazione che lo curava e gli dava una mano. L'hanno mandato a Basto, da una settimana, dove non c'è nessuno che per il momento si prende cura di lui. Quest'uomo morirà là dentro, nonostante ha terminato la sua pena. Allora, noi cosa vogliamo fare oggi? Grazie Santa Maria Capovita. Io la ringrazio perché, da quello che dice mio figlio, le telecamere di Modena saranno anche bruciate, è vero. Ma perché non hanno vagliato di defondire secondo me? Però le telecamere di Ascoli Piceno non sono bruciate ed erano funzionanti. Per quale motivo non controllano le telecamere di Ascoli Piceno, dove si vede benissimo noi quando siamo arrivati, come ci hanno fatto scendere in mutante e scalzi, dove ci hanno portato e come ci hanno menato e come è morto il nostro amico Cerrato? Allora, vogliamo riaprire il caso, dateci una mano qua, perché vogliamo far aprire il caso. La rivoluzione, non è un semplice avvenimento. La rivoluzione,